Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina, oggi è il 6 dicembre, Italia in controluce, due edizioni, 6.30 e 13.30, programmi di Radio 24 che raccontano la politica, la cronaca italiana, il costume, la cultura, lo spettacolo. Buongiorno e buona mattina da Daniele Biacchessi. Oggi una puntata speciale di Italia in controluce dedicata alla discarica di Appignano, in provincia di Macerata, nelle Marche. Il reportage di Cristina Carpinelli. Appignano è un paese di 4.000 abitanti nelle Marche. Il paesaggio che si incontra è quello delle colline. Per farvi capire, bello quanto quello del Chianti, che tanti turisti e quindi tanti soldi ha portato alla Toscana. A nessuno è venuto in mente di costruire, almeno per ora, una discarica nelle colline toscane. Invece, ad Appignano sì. Ma non una discarica, se ne vogliono costruire tre per tre paesini contigui. Una devastazione senza uguali, tanto più che Appignano si è portato a casa il premio di comune riciclone e che un bel po' di turisti del nord Europa stanno venendo qui da anni. Tanto che un signore belga, Eric De Busque, ha aperto proprio in queste dolci colline un agriturismo. Una delle discariche, a cui si pensa, dovrebbe sorgere proprio a ridosso della sua terra. Con ironia, Eric De Busque si immagina tra qualche anno l'arrivo di nord europei in visita all'immondizia. Qui ci troviamo proprio sul posto dove tutti i turisti stranieri, soprattutto per il 98%, si divertono tanto, tanto durante tutta l'estate. Se va avanti così ci rimane solo una soluzione, forse ci abbiamo pensato gli ultimi giorni, è riconvertire un po' la nostra struttura in una struttura di visita, perché agli stranieri dell'Europa settentrionale forse piacerà venire a vedere un po' l'archeologia industriale, anzi l'archeologia industriale ed ambientale. C'è poco da ridere. È possibile che si continui a pensare alle discariche come problema risolutivo? La discarica dovrebbe essere una questione temporanea della gestione dei rifiuti. La vera cosa da fare è differenziare, riciclare, ridurre e ispirarsi a chi fa il meglio e non andare sempre al ribasso. Vi sembro ingenua? Non sono sola. La pensano così le persone di Terzigno in Campania, la pensano così i cittadini di Appignano nelle Marche che hanno annunciato battaglia dura. Loro, che riciclano, separano i rifiuti, vivono di agricoltura e turismo, non possono permettersi il lusso di vedersi distruggere quello che hanno. E neppure noi ce lo possiamo permettere, questo lusso. Sentiamo il sindaco di Appignano, Osvaldo Messi. Circa un anno fa è stato presentato in regione un progetto per una discarica di dimensioni esagerate, soprattutto, io direi, per ogni contesto, ma soprattutto per la nostra situazione, la nostra realtà. Appignano è un paese di soli 22 chilometri quadrati e nella zona più attrattiva anche da un punto di vista turistico è stata situata, collocata il progetto di una discarica di circa 4 milioni di metri cubi di rifiuti speciali, non pericolosi, quindi da parte su iniziativa di un privato. Ecco, chi è questo privato? Il privato è una società, una SRL formata da due persone, da due persone fisiche e più un'altra ulteriore SRL a sede in Lussemburgo. E qui naturalmente si perdono le tracce di ulteriori persone che sono dietro alla vicenda. E questo naturalmente mi preoccupa. La preoccupazione nasce dalle cronache, da quello che quotidianamente ascoltiamo, sentiamo, e dai fatti che sono accaduti anche vicini a noi, le varie inchieste, le varie problematiche che sorgono intorno ai rifiuti. Sicuramente i rifiuti sono un business consistente, grande, questo non può che destarci molta preoccupazione. Quindi io come sindaco, come rappresentante, come cittadino di Appignano prevedo per il futuro una destinazione sicuramente diversa per quella zona. Mi aspetto che la risposta sia negativa per quanto riguarda quel progetto. E questo è quello che chiedo con forza e chiederò fino in fondo, anche guidando una protesta forte, perché non accetteremo mai una simile discarica nel nostro territorio. Un'imposizione di questo tipo e una prevaricazione, un atto di prepotenza come questo non lo accetteremo mai e lo contesteremo con forza. Quello che dice Messi non è distante da quello che dicono a Bruxelles. Quello che vi facciamo sentire ora è un documento praticamente inedito, mai trasmesso in televisione. Ma è possibile trovarlo su internet. Sono le dichiarazioni di Judith Merkis, eurodeputata in visita a Napoli. My first impression is the absence of a constructive dialogue. Innanzitutto abbiamo potuto constatare l'assenza di un dialogo tra i cittadini e le autorità. Un dialogo fortemente necessario anche tra i vari livelli amministrativi. Inoltre siamo rimasti colpiti dal fatto che il sindaco, per esempio, di Terzigno non aveva mai avuto accesso al sito. È la prima volta che è riuscito ad entrare nella discarica. There is just two other impressions that I would like to share. The second one being the absence of the waste. Manca un ciclo integrato e non viene rispettata la gerarchia dei rifiuti. Whether it should be reduce waste. Gerarchia significa che si utilizzano soltanto discariche ed inceneritori senza passare per esempio alla riduzione dei rifiuti, alla loro selezione, al loro riciclaggio, dunque a un utilizzo progressivamente minore delle discariche. Un'altra preoccupazione è che le discariche vengono viste come non come una soluzione temporanea, ma come una soluzione definitiva. Landfill as a final solution is unacceptable. La seconda edizione di Italia in Controluce su radio24.it, trovate il mio blog, su Facebook Radio24 Italia in Controluce, su Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it. Torniamo oggi nella seconda edizione alle 13:30 su Radio 24.